Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questa nostra giornata di mercoledì 22 febbraio, una giornata di stampa che ricorda la vicenda di Babi Zaki e la campagna per sottrarlo alle prigionie e alle torture in Egitto, e che ci parla anche della strage di Bologna. Finalmente si arriva al livello occulto dei mandanti, tanto occulto non è nella coscienza popolare ma nei tribunali, è davvero una svolta importante. Noi comunque cominciamo con Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Iraq, arriva la neve per la prima volta dal 2008. In vista delle elezioni parlamentari l'Iran silenzia giornalisti e attivisti. Egitto, un bambino nasce ogni 17,9 secondi. Venezuela, la milizia civile diventa parte delle forze armate. E ancora Sudan, l'ex presidente Bashir sarà consegnato al Tribunale Penale Internazionale. Messico, MSF, aumentano i sequestri di richiedenti asilo. E le Filippine sciolgono il patto di difesa con gli Stati Uniti. Irlanda del Nord, una coppia fa la storia con il primo matrimonio omosessuale. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo con l'Iran. L'intelligence del corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica sta convocando giornalisti, facendo irruzione nelle loro case e confiscando i loro dispositivi elettronici in una rinnovata campagna per mettere a tacere le critiche sulle politiche statali in vista delle elezioni parlamentari dell'Iran alla fine di questo mese. Giornalisti minacciati, detenzione di attivisti e squalifica di candidati. I candidati parlamentari non metteranno a tacere il dissenso in Iran, come hanno dimostrato le recenti proteste, ha dichiarato il direttore esecutivo del Center for Human Rights in Iran, CHRI, Hadi Ghaemi. Impegnarsi nel giornalismo indipendente e attivismo pacifico non dovrebbe essere un atto rischioso per la vita, ha aggiunto. Secondo le testimonianze di prima mano fornite a CHRI, la recente repressione rivolta a giornalisti e attivisti che mantengono attivi gli account sui social media. Tra le persone colpite vi sono il difensore dei diritti umani ed ex detenuto di coscienza Barhan Aidiat, che è stato arrestato il 10 febbraio dopo essere comparso all'ufficio di sicurezza dell'Università di Teheran in risposta a una convocazione. Almeno 10 giornalisti sono stati presi di mira dall'organizzazione di intelligence delle guardie rivoluzionarie nelle prime due settimane, tra cui Yasaman Kalegian, un giornalista freelance di affari sociali, Masiar Khorasvavi, ex giornalista politico ed editore del giornale riformista Sharq, Malud Hajizadeh, reporter di affari femminili sul giornale Tadul, Yagman Fakhshami, ex reporter del sito di notizie Didban Iran, Ehsan Bodaghi, reporter parlamentare del quotidiano iraniano finanziato dallo Stato, e sua moglie giornalista Shabman Nezami, così come Mona Mafi. Iraq, nevica Baghdad per la prima volta dal 2008. Un raro momento di tregua dalle tensioni politiche e sociali, durante il quale i residenti si sono fatti selfie, i bambini sono corsi nei parchi a giocare prima che la neve si sciogliesse al sole. E le donne irachene hanno chiesto un'azione internazionale urgente per far fronte alla crescente violenza contro i manifestanti nel mezzo di un aumento degli attacchi delle milizie armate. Ieri la Lega delle Donne Irachene ha condannato l'eccessiva violenza commessa dai servizi di sicurezza irachene. Almeno 600 persone sono state uccise dall'inizio della rivolta antigovernativa ad ottobre. Hanno chiesto alle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali di ritenere il governo iracheno responsabile della spirale di violenza che ha visto decine di morti negli attacchi nei campi di protesta negli ultimi giorni. Siria, sale la tensione tra il governo siriano e la Turchia, sostenitrice dei ribelli, dopo che 51 soldati siriani sono stati uccisi nel nord-ovest, e Ankara ha messo in guardia del prezzo pesante che potrebbero pagare nel caso di ritorsioni. Poche ore prima i militari siriani avevano preso per la prima volta dal 2012 il controllo della principale autostrada Aleppo-Damasco che attraversa la provincia di Idlib. Il leader palestinese Mahmoud Abbas alle Nazioni Unite ha condannato il piano di pace di Trump, ha detto che il progetto metterebbe fine alla questione dello Stato palestinese, che gli Stati Uniti hanno solo offerto ai palestinesi un formaggio svizzero con i buchi. In ogni caso Abbas non è riuscito a ottenere abbastanza sostegno per il voto di una risoluzione del Consiglio di sicurezza che vi si opponga. Il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, ha saltato un incontro con una delegazione egiziana in visita lunedì per paura di un tentato omicidio mirato israeliano contro di lui, secondo quanto riferito dai media israeliani ieri. La delegazione ha trasmesso un messaggio da parte di Israele che dice che se la quiete non ritorna nella striscia di Gaza sarà un duro colpo per il gruppo, qualcosa che gli egiziani hanno avvertito avrebbe avuto il sì al sostegno americano che internazionale. La delegazione egiziana era a Gaza per negoziare un cessato il fuoco tra Hamas e Israele e ha incontrato funzionari della sicurezza israeliana prima di dirigersi verso l'enclave costiera. Domenica il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Naftali Bennett hanno dichiarato che Israele potrebbe tornare a una politica di omicidi mirati se Hamas continuasse a lanciare attacchi contro Israele. Egitto, la popolazione egiziana ha superato i 100 milioni con statistiche che mostrano che un bambino nasce ogni 17,9 secondi. Il paese nordafricano ha assistito a una rapida crescita della popolazione negli ultimi tre decenni, passando da 57 milioni nel 1990. In circa due anni la popolazione egiziana è cresciuta di quasi 4 milioni. Il primo ministro Mostafa Madbouli ha dichiarato la scorsa settimana che la sovrappopolazione è la principale sfida per il paese. Il tasso di crescita della popolazione ha causato preoccupazioni tra le autorità, che hanno recentemente risposto incoraggiando le persone ad avere famiglie più piccole. E ancora Egitto, le autorità il 7 febbraio 2020 hanno arrestato Patrick George Zaki, un ricercatore dell'iniziativa egiziana per i diritti personali, in una grave escalation della loro campagna contro gli attivisti e i gruppi per i diritti umani, ha detto ieri Human Rights Watch. Una fonte ha dichiarato a Human Rights Watch che la National Security Agency ha tenuto George Zaki in isolamento per circa 24 ore e lo ha sottoposto a torture. È stato detenuto in due siti di detenzione non ufficiali della National Security Agency al Cairo e al Mansura, dove il ragazzo è stato interrogato sul suo attivismo e sul suo lavoro, ha detto la fonte. Zaki lavora per l'iniziativa egiziana per i diritti personali e IPR sui diritti di genere e di sessualità. Le autorità lo hanno arrestato al suo arrivo all'aeroporto del Cairo dall'Italia, dove ha vissuto e studiato. Dopo 24 ore i pubblici ministeri hanno ordinato a Zaki di essere arrestato in attesa di un'indagine, accusato di incitamento alla protesta, la diffusione di notizie false, ancora incitamento alla violenza e al terrorismo. E IPR ha riferito che la maggior parte dell'interrogatorio riguardava i suoi post su Facebook. Sarà consegnato alla Corte Penale Internazionale dell'Aia, siamo ora in Sudan, l'ex leader Omar al-Bashir, lo ha promesso il Consiglio Militare del paese. Bashir è accusato di crimini di guerra e contro l'umanità commessi in Darfur durante il brutale conflitto iniziato nel 2003. Bashir è stato destituito nell'aprile dell'anno scorso, condannato per corruzione a due anni in una struttura di riforma sociale. Insieme a lui incriminati tre dei suoi ex consiglieri. Stai ascoltando Radio Bullets. E ieri una coppia di Belfast ha fatto la storia diventando la prima coppia omosessuale a sposarsi nell'Irlanda del Nord a seguito di un cambiamento radicale nella legge l'anno scorso. Robin Peoples, 26 anni, e Sharni Edwards, 27 anni, si sono sposati in una cerimonia pomeridiana in un hotel di Carrefourgus vicino a Belfast dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione questo lunedì. Il cambiamento legale è seguito alla campagna di Amnesty International e delle organizzazioni partner nella coalizione Love Equality, che l'ha definito un momento di riferimento per l'uguaglianza nell'Irlanda del Nord. Afghanistan, attentato kamikaze a Kabul, preso di mira un mezzo militare davanti all'Accademia delle Forze Armate, 5 morti e 11 feriti, la maggior parte civili. Filippine, il presidente Rodrigo Duterte ha reso noto agli Stati Uniti la sua decisione di eliminare un accordo bilaterale riguardante le truppe americane in visita a seguito di ripetute minacce per il declassamento dell'alleanza della difesa. L'accordo sulle forze in visita VFA, firmato nel 1998, accorda lo status legale a migliaia di truppe americane ruotate nel paese per assistenza umanitaria ed esercitazioni militari, decine delle quali si svolgono ogni anno. Duterte, che non ha nascosto il suo rancore per gli Stati Uniti e il suo disprezzo per le strette relazioni militari del suo paese, crede che sia il momento di essere più militarmente indipendenti, ha detto il suo portavoce. La risoluzione avrà effetto 180 giorni dopo, a meno che entrambe le parti non concordino di mantenerla. Il segretario della difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, ha definito la decisione sfortunata e ha detto che è una mossa nella direzione sbagliata in un momento in cui Washington e i suoi alleati stanno cercando di spingere la Cina a rispettare regole internazionali in Asia. Cina, superati 1100 morti da coronavirus, eppure sembra rallentare, 42.000 gli infetti. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il coronavirus è il nemico pubblico numero uno. Il governo cinese ha deciso di licenziare due figure di primo piano della provincia di Hubei per come hanno gestito l'emergenza. Si tratta del segretario del partito della Commissione Salute della provincia e il vice direttore della Croce Rossa locale. Messico, sdegno, rabbia, dolori. I messicani sono sconvolti per il brutale omicidio di una giovane donna pugnalata a morte dal suo partner. Ingrid Escamilla, 25 anni, è stata uccisa dall'uomo con cui viveva, che l'ha anche mutilata e scuoiata cercando di cancellare le prove. L'uomo è stato arrestato dopo che l'ex moglie ha allertato la polizia. I femminicidi sono in aumento in Messico, con oltre 700 casi attualmente in fase di indagine. Gli attivisti affermano che il numero di donne uccise per il loro genere è molto più elevato. Sono anche critici del fatto che la stragrande maggioranza dei casi non viene mai risolta e solo una piccola percentuale di autori viene assicurata alla giustizia. La notizia dell'omicidio di Escamilla è arrivata appena un giorno dopo il presidente Andrés Manuel López Obrador ha affermato che la questione dei femminicidi era stata manipolata dai media critici della sua amministrazione. Stava rispondendo alle domande dei giornalisti sui piani del procuratore generale Alejandro Gertz per cambiare il modo in cui i femminicidi sono classificati. Secondo i dati ufficiali, 3.142 donne sono state uccise in Messico nei primi 10 mesi del 2019. Di questi, 726 casi sono stati trattati come femminicidi. Secondo alcuni attivisti, per i diritti delle donne sono troppo bassi. I richiedenti asilo centroamericani arrivati in Messico dagli Stati Uniti in attesa delle loro udienze diventano sempre più vittime di rapimenti e altri tipi di violenza, ha dichiarato Medici Senza Frontiere in un rapporto pubblicato ieri. Nel tentativo di ridurre le richieste d'asilo, l'amministrazione del presidente Trump ha lanciato un'iniziativa nel gennaio 2019 che costringe oltre 57.000 migranti non messicani ad aspettare in Messico le loro udienze in tribunale per l'immigrazione negli Stati Uniti, nell'ambito di un programma noto come Protocolli di Protezione dei Migranti, MPP. MSF ha dichiarato che a settembre 2019 quasi il 44% dei suoi pazienti inviati nelle città di confine messicane di Nuovo Laredo nell'ambito del programma MPP era stato rapito, un altro 12% era stato vittima di tentativi di rapimento. A ottobre la percentuale di tali rapimenti è salito al 75%. E andiamo in Venezuela. Dopo 23 giorni in giro per il mondo a consolidare il sostegno internazionale, nonostante il divieto di espatrio impostogli dal presidente Maduro, il leader dell'opposizione Guaidó è rientrato nel paese. Intanto il Venezuela ha designato la sua milizia civile come parte dell'esercito, secondo la Gazzetta Ufficiale, un cambiamento amministrativo che almeno sulla carta espanderà notevolmente le forze armate che sono state cruciali nel mantenere il presidente Nicolas Maduro al potere. La milizia ora si erge come un ramo delle forze armate a fianco dell'esercito, della marina e della dell'Aeronautica e della Guardia Nazionale. Maduro a gennaio ha dichiarato che la milizia ha 3,7 milioni di membri rispetto a 150.000 membri attivi delle forze armate, ma il cambio non sembra avere un effetto pratico significativo, perché la milizia esiste dal 2008 e i suoi membri non hanno la stessa formazione professionale dei membri attivi delle principali componenti delle forze armate. La milizia dovrebbe organizzare, equipaggiare, addestrare, indottrinare le persone per contribuire alla sicurezza della nazione, secondo la Gazzetta Ufficiale del governo datata 1 febbraio e vista da Reuters, ma non è ancora stata rilasciata ufficialmente. E concludiamo con il Brasile. Oltre 20.000 lavoratori della società controllata dallo Stato brasiliano Petrobras sono in sciopero nazionale per protestare contro il licenziamento dei lavoratori e la privatizzazione di beni pubblici. A metà gennaio il presidente di estrema destra Bolsonaro ha annunciato la chiusura della fabbrica di fertilizzanti azotati Paraná, una filiale di Petrobras in cui lavorano oltre 1.000 persone. La risposta della classe lavoratrice brasiliana è stata immediata. Il 1 febbraio la Single Federation of Tankers e la Workers Single Central hanno iniziato uno sciopero indefinito che sta diventando una pietra miliare. Dopo 11 giorni consecutivi lo sciopero è riuscito a riunire lavoratori provenienti da 43 piattaforme petrolifere, 11 raffinerie, 18 terminal, 7 giacimenti petroliferi terrestri, 5 centrali termoelettriche, 3 basi amministrative, 3 unità per la lavorazione del gas e un complesso petrolchimico insieme a un impianto di biocarburanti, tra le altre strutture. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento domani con una nuova raffica di notizie. E vi ricordo che siamo una radio indipendente, quindi se volete sostenerci, radiobullets.com/sostienici. Ma veniamo invece ai cambiamenti climatici, perché parliamo di drawdown, in quanto parliamo del libro dell'ambientalista americano Paul Hawken, che ha interpellato oltre 200 scienziati per individuare soluzioni contro i cambiamenti climatici. Noi abbiamo intervistato il traduttore italiano Massimo Brondisini, sentiamo le sue parole. Il sottotitolo già spiega molto, cioè si tratta di un progetto ideato da Paul Hawken, che è uno dei principali, forse il principale ambientalista americano, che ha riunito 200 scienziati di tutto il mondo per trovare soluzioni, e ne hanno trovate ben 100, per invertire appunto il corso del riscaldamento globale e diciamo migliorare quelle che sono le conseguenze dell'effetto serra e dell'eccessiva produzione di anidride carbonica. Però ha un taglio molto basilare, accessibile a tutti. tutti. Nell'introduzione Stefano Boeri lo chiama Atlante, proprio perché come quando eravamo alle scuole e avevamo un atlante geografico potevamo aprire qualunque pagina e immergerci nella lettura e negli argomenti. Penso che sia il punto di forza di questo libro, cioè è stato volutamente studiato con un linguaggio accessibile, non dico a tutti, ma insomma molto facile da leggere per tutti, anche se le soluzioni trovate hanno un fortissimo rigore scientifico, cioè sono state intanto formulate dai principali esperti del mondo su ciascun argomento, su una soluzione, e poi revisionate ad alto livello per ben 3 volte, quindi i dati che ci forniscono, che poi sono dati proiettati fino al 2050, sono molto attendibili, e quindi è un progetto su cui si può lavorare per cercare di risolvere i problemi che conosciamo tutti. Sono affrontati 7 argomenti con più sfaccettature, dall'energia all'alimentazione, all'agricoltura, agli edifici, alle giovani donne, all'uso del suolo. Diciamo, ogni argomento è stato appunto viscerato, direi, niente è stato lasciato da parte. Ognuno può trovare all'interno di queste 100 soluzioni quella che più risponde, non so, alle proprie caratteristiche, al lavoro che fa, se è un agricoltore, se si occupa di energia, se si occupa di trasporti, quindi è migliorare nel suo ramo, nel suo campo, la situazione. Siccome si tratta di un progetto mondiale, pubblicato già, prodotto in Francia, Germania, Olanda, Brasile e pubblicato in 15 paesi, quindi potrebbe, proprio per questo, perché è un progetto mondiale, funzionare. Tra l'altro sul sito, che è drawdown.org, è possibile trovare anche aggiornamenti alle notizie, aggiornamenti continui, cioè chiunque può contribuire a migliorare quelle che sono state le soluzioni trovate fino adesso, quindi è un progetto vivo. Volevo parlare delle prefazioni perché c'è una vecchia conoscenza bolognese, un grande chimico, Vincenzo Balzani, che ha scritto una parte della prefazione, Michele Lazinger di Trento, del museo, e Andrea Segre. Sì, infatti devo dire che sono prefazioni che già da sole, insomma, sono di conforto, perché sono tutti grandi personalità appunto scientifiche della scienza che ci credono in questo progetto. Ne ho parlato appunto spesso con Andrea Segre, che qualche giorno fa, diciamo, era un po' in TV, un po' dappertutto, sulla giornata contro lo spreco alimentare, che è una delle soluzioni di cui vengono individuate. Stefano Boeri, ti dico una cosa che forse molti non sanno, ha progettato e ha messo in pratica sia a Milano questi grattacieli, questi boschi verticali, ma in realtà lui adesso sta già progettando, anzi ha già riuscito a mettere in opera delle città verdi, sono delle smart forest city, cioè città foresta, addirittura di 120.000 abitanti, e questa sarà a Cancun in Messico. Quindi tra l'altro la presentazione di Boeri l'ha richiesta Paul Hawking in persona, perché sono amici, quindi per dire come la stima che c'è anche da parte dell'autore del libro verso Stefano Boeri. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. Now we gathered here on the universe at this time, this particular time, to listen to the 36 black notes of the piano. There's 36 black notes and 52 white notes. We don't mean to eliminate nothing, but we're gonna just hear the black notes at this time, if you don't mind. Blackness, BLACKNUSS. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Le bombe nelle banche, le bombe nei vagoni, le mettono i fascisti, le pagano i padroni, ovvero sia la strage di Stato. Quante volte nei cortei abbiamo gridato questa denuncia e per quello magari siamo stati caricati in piazza, abbiamo preso delle denunce noi a nostra volta, perché erano noi veri delinquenti, mentre Ciocelli era assolutamente innocente. Beh, la storia oggi anche in tribunale rovescia la piramide e leggiamo: strage, il mandante fu Ciocelli. Chiuse l'inchiesta della Procura Generale tra i due apparati deviati dello Stato, beh, lo Stato che era deviato, inviati 4 avvisi di fine indagine. E oggi i giornali si sprecano su questo titolo, in particolare quei locali, perché la strage era la piazza di Bologna chiaramente, ma si tratta di tutta la strategia della tensione. Ecco i nomi dietro il 2 agosto e con volti e ombre nel romanzo di una strage. E volti e le ombre sono quelle naturalmente del patriarca Ciocelli, gran maestro della venerabile P2, loggia massonica coperta, Federico D'Umberto D'Amato, Mario Tedeschi, Paolo Bellini, Umberto Ortolani. Per più sono morti, tranne Bellini che oggi ha 86 anni, perché diciamo che è la longa mano della legge, che è un po' lenta più che longa. Comunque, strage di Bologna, i mandanti P2, Gelli e lo Stato deviato. Questo è il Corriere in pagina nazionale con Andreina Baccaro, a 40 anni dalla bomba. Anche il Corriere di Bologna: Gelli, P2, mandanti della strage. Per i magistrati, la primula nera, Paolo Bellini, erano degli esecutori materiali, pezzo dello Stato, indagati per depistaggio. Ed è curioso come piccolo il mondo, perché leggiamo il legale di Bellini ci dichiara innocente questo 86enne, ma c'è anche un tal Domenico Catracchia, falsa testimonianza, amministratore di numerosi appartamenti legati ai servizi segreti in via, dove? In via Gradoli. Ora fate memoria un po', chi era detenuto in via Gradoli? Non era detenuto Aldo Moro, sequestrato dalle Brigate Rosse in appartamenti affittati dai servizi segreti? Allora, Gelli, mandante con l'uomo del Viminale, questo è il doppio stato raccontato dal Fatto Quotidiano, che interviene con la scatola nera di Marco Travaglio. Piazza Fontana, delitto Calabresi, delitto Moro, strage di Bologna, Capaci, via D'Amelio, bombe di Roma, Firenze a Milano, trattativa Stato-Mafia, dispetto della visione unitaria di pochi magistrati, giornalisti e storici squalificati come complottisti e chiappateoremi, la narrazione, leggo da Travaglio, la narrazione mainstream ha sempre respinto la teoria del famoso doppio Stato, spacciando le varie tappe della strategia della tensione di destra e di sinistra come una serie di fatti isolati e slegati senza alcuna regia superiore. Nel 2009 il presidente Giorgio Napolitano, lo stesso che da ministro dell'interno si era vantato di non aprire gli armadi del Viminale, impose urbi et orbi la linea negazionista, intimando di smetterla con il fantomatico doppio Stato, così disse, parole testuali, come se il capo di uno Stato democratico potesse mettere a camici di forza la ricerca storica, le indagini giudiziarie e giornalistiche. Infatti poi tentò di deviare le indagini palermitane sulla trattativa Stato-Mafia, colpevole di smascherare il doppio Stato che combatteva la mafia e intanto tremava con questa. Strage di Bologna dopo 40 anni, ecco i mandanti, dice oggi il Carlino a proposito di giustizia infinita. Chiusa l'indagine della Procura Generale, c'è anche l'aspetto finanziario, perché secondo l'accusa un fiume di denaro arrivò ai terroristi neri dal Banco Ambrosiano. E infatti su questo anche la Repubblica nelle pagine bolognesi: quei milioni di dollari dal venerabile ai NAR sono i fondi del terrorismo nero, e non erano pochi, 2,5 milioni di dollari. Tanto è costata la vita di 85 persone provenienti dal crack ambrosiano, passati sui conti correnti svizzeri di Gelli e del suo amico Umberto Ortolani, per arrivare nelle casse dell'eversione fascista. Furono i vertici della P2 a ordinare e finanziare l'attentato alla stazione del 2 agosto eseguito dai NAR. Verso il processo Bellini, appunto l'unico sopravvissuto, un uomo del SISD, un carabiniere, un faccendiere, sembra una barzelletta ma purtroppo è una barzelletta amara e tragica, ideatori, organizzatori dell'eccidio, appunto Gelli, Ortolani, D'Amato e Tedeschi. I familiari delle vittime sono convinti convinti che questo processo cambierà la storia. Dice il presidente dell'associazione familiari Paolo Bolognesi: finalmente i mandanti quest'anno un anniversario speciale, grazie alla tecnologia sono emersi particolari come quello di Via Gradoli, dove avevano covi sia le BR che i NAR. Ma l'inchiesta sugli ideatori della strage non è finita, c'è un secondo filone di indagini, potremmo avere nuove sorprese, anche se, come commenta Aldo Balzanelli, sorprese tutte legate al cuore di quello che è emerso, cioè che l'eversione era nel cuore dello Stato. Contropiano, giornale comunista online, ci presenta questo titolo: strage fascista e di Stato. E la foto è di un Licio Gelli, il venerabile, capo della loggia P2, ancora giovinotto, in divisa, con questa fototessera di questo documento, perché Licio Gelli di Ettore, rispettore nazionale, organizzatore, fasci, combattenti e combattimento estero. Silenzio Parlagnese dei Fratelli Soledad, anzi si chiama in realtà Brescia, Bologna Ustica, questo brano ska. Ma andiamo invece a un'altra vicenda che purtroppo non ha, è tra le tante ancora nell'ombra, ed è quella che della Moby Prince, questo traghetto che è stato scontrato con questa nave petroliera al largo di Livorno. Non si capisce perché, poi si sapeva che era legata a strani traffici, armi, uranio per la Somalia allora, di Mogadiscio eccetera eccetera, una vicenda che ci porterà fino all'assassinio di Mira Robert in Ilaria Alpi. Comunque, in realtà 140 morti nel 91 in questo tragico scontro marittimo, la Moby Prince non ha colpevoli, senza reato di strage è tutto finito. Parla il presidente dell'associazione vittime Loris Rispoli, prescrizione è un pericolo alle nuove indagini, perché se non viene dichiarato il reato di strage cade sotto la mannaia della prescrizione, quindi si chiude tutto come niente. Ma noi passiamo invece a questa campagna, mobilitazione che spero faccia il maggior rumore possibile, che solo il rumore è quella che può salvare Patrizaki dalle carceri, dai torturatori egiziani. Allora i giornali per il momento speriamo che continuino e battono su questo chiodo tenendo il ferro caldo, con Francesco Battistini per esempio dal Mansura in Egitto, che per il Corriere scrive: in cella il nostro Patrick chiede libri, la voce è quella dei genitori di Patrick Zaki, ha le sue opinioni ma non è una minaccia per nessuno, l'hanno interrogato sui suoi legami con la famiglia Regeni. Quindi capiamo qual è un po' il meccanismo di questa detenzione. In TV si dice che sta in galera perché promuove l'omosessualità e quindi vuole pervertire la gente onesta dell'Egitto, tra virgolette, e in realtà questa è la faccia ufficiale, perché nel retrobottega delle torture ci vuole saperne più su Regeni per magari infangare anche questa complicata questione internazionale per l'Egitto. Di Maio, ministro degli esteri, sempre dal Corriere, da intervistato da Maurizio Caprara: Roma seguirà il processo, per farlo serve il dialogo col Cairo, intanto per favorire il dialogo gli vendono un sacco di navi, di fregate, questo è per il famoso dialogo. Il ministro degli esteri: chiediamo notizie sullo studente egiziano, difendiamo i diritti umani. Questo è quanto. E la pagina della Stampa parla di Roma Italia, la mobilitazione per il ricercatore Zaki arrestato dagli 007 in Egitto. Quindi il suo avvocato ha dichiarato che Zaki è stato interrogato, picchiato e torturato anche con scariche elettriche per 17 ore. Lapidario invece il commento del legale della famiglia di Giulio Regeni: Zaki è nelle stesse mani degli Agostini di Giulio. E allora tra Regeni e Zaki c'è questo filo doloroso che viene immortalato in questo disegno, questo disegno murale che vede un Regeni che abbraccia Zaki, dice stavolta andrà tutto bene, ed è un lavoro della street art laica che è stato dipinto a Roma. Il titolo di apertura di oggi della Repubblica è proprio su questa vicenda, perché Repubblica ha inviato una propria giornalista a casa dello studente egiziano arrestato a 120 chilometri a nord del Cairo. A parlare il padre di Patrick Zaki, George, 55 anni. Come stiamo? Non capiamo più niente. Nostro figlio stava tornando a casa per festeggiare gli ottimi voti ottenuti, ci siamo ritrovati a portargli cibo e vestiti in prigione. Vogliamo soltanto che torni a casa. Una famiglia intimorita dal clamore della vicenda si accetta di incontrare la stampa perché spera che la pressione internazionale possa aiutare. Rivogliamo Patrick, appunto, è stato bendato, dicono i suoi familiari, interrogato e torturato per 30 ore, gli chiedevano dei suoi legami con l'Italia e con i parenti di Giulio Regeni. Nel frattempo il rettore di Bologna Ubertini convoca i vertici, è un caso gravissimo, summit convocato appunto per affrontare una questione definita delicata. L'Università di Bologna fa quadrato e si mobilita non solo nelle piazze, e con un'intervista della Repubblica di Maio, il quale dice: stiamo seguendo da vicino la vicenda, al Cairo serve un ambasciatore per Zaki e per Giulio. Su Regeni insistiamo ogni volta, vogliamo la verità. Il Manifesto, in questa che definisce la piramide del terrore, ricordando che appunto come l'Egitto stia censurando la campagna social per Patrick Zaki, il Manifesto però ci ricorda anche, come dire, un'altra faccia della medaglia, ovvero i rapporti, appunto i legami, visto che della Repubblica oggi ha intervistato Di Maio, ministro degli esteri, cioè gli affari tra Egitto e Italia. Gli affari con le aziende italiane vanno a gonfie vele. In questi giorni il Cairo è stato teatro della fiera egiziana del settore petrolio e gas, di cui Eni è uno degli sponsor principali, a cui hanno preso parte 24 aziende italiane. Così come a Milano era in corso la 40ª edizione della Borsa Internazionale del Turismo, che ha celebrato il ritorno dell'ente del turismo egiziano. Insomma, appunto, affari in compenso a gonfie vele. Questa mattina l'Avvenire apre sul problema demografico e il titolo del giornale cattolico recita così: sempre meno figli, Italia più debole. E questo è il tema che viene ripreso anche, oltre che dall'Avvenire, anche dal Mattino di Napoli. E andiamo a sfogliare dunque questo foglio partenopeo e troviamo sì il tema del polo sogno e tavola, ma c'è chi ne mangia due e chi non ne mangia niente. Quindi il Mattino, su queste statistiche, l'Italia si spopola, il Sud di più. Mai così pochi figli, nell'ultimo decennio persi 134.000 neonati. Mattarella intervenire nel Mezzogiorno verso il collasso demografico, sull'invecchiamento pesa la fuga dei giovani. Questo è il quadro. Mi sposto invece al Corriere, nello studio di Alessandra Arachi. In Italia mai così pochi figli, meglio al nord, record a Bolzano. E poi ci sottolinea che se non fosse per il contributo alla natalità data dalle coppie immigrate sarebbe molto più pesante il deficit. Quindi il solito discorso che un'Italia che invecchia, la linfa giovane che arriva dagli altri mondi deve essere ben accetta e non certo con porti chiusi o con regole da bastone. Mattarella, fenomeno da contrastare questa detenalità. I dati Istit, sempre più mamme over 30. C'è anche questa vicenda, ma non c'è solo la denatalità che spopola l'Italia, perché racconta l'analisi di Federico Fubini dal Corriere, tanti in fuga dal meridione, perché c'è anche l'immigrazione italiana. Non si nasce più, il grido d'allarme della Repubblica su questa Italia senza culle. Ogni 100 morti, 67 neonati. Insomma, il conto non torna mai così male dal 1918. E ci sono però, come dire, non è un andamento ineluttabile. C'è l'economista Del Boca, ad esempio, intervistato dalla Repubblica, Daniela Del Boca, intervistata dalla Repubblica, dice: all'estero la politica ha saputo invertire la rotta, mentre il Forum delle Famiglie ne approfitta, visto che c'è, per chiedere subito un patto per la natalità. C'è anche un'intervista a Elena Bonetti, ministra per la famiglia, che anticipa già dal 2021 ci sarà un assegno unico per i figli, e poi vogliamo togliere le tasse sull'istruzione. Quindi nel retroscena, però, descritto dalla Repubblica, il Family Act, ostaggio della guerra tra PD e Italia Viva, con Conte appunto a mediare, mentre anche dal resto del Carlino appunto l'allarme per queste culle non vuote ma vuotissime, appunto, che vengono commentate soprattutto naturalmente da molti preoccupati sociologi. La Stampa, dopo aver segnalato che siamo il paese delle culle vuote, il saldo peggiore da 100 anni, rispetto al baby boom degli anni 60 ci sono 500.000 di nascite in meno, dà voce poi a Giuseppe De Rita, fondatore del Censis, che la mette sul morale o sul moralistico. Alla fine, guarda, sono sicuro che alla fine la colpa sarà delle donne, perché tutte le strade portano a Roma e tutte le critiche vanno alle donne, perché, leggo, si rifiutano i sacrifici che i figli richiedono. Bonus o asili gratis non servono, beh, comunque aiuterebbero, dico io. Una società che non sa dire noi non fa più figli. L'egolatria del social riduce gli orizzonti mentali e impedisce di accettare la sfida della genitorialità, e questo rispetto al tema dei nascituri. Proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Anche se Derrida non ci crede, in fondo la crisi in qualche modo conta nella eternalità. Allora diciamo addio Air Italy, il 25 stoppa i voli, a rischio 1500 dipendenti. È un dato che evidentemente ha come sempre il riverbero del lavoro, ma è un dato che ha un riverbero anche per la comunicazione, perché sui trasporti non a caso l'Unione Sarda oggi titola Air Italy vola verso il fallimento. L'azienda messa in liquidazione, 1200 lavoratori in Sardegna perdono il posto di lavoro, ma anche la Sardegna rimane più isolata nel suo mare Tirreno, lontano dal continente. Questo è quello che leggiamo, ma anche la stampa: Air Italy finisce in liquidazione, a terra gli aerei 1500 lavoratori, perdite per 230 milioni, il social Qatar Airways al 49%, pronta a ricapitalizzare, ma Alisardo 51% ha detto no, anche perché sono regole dell'Unione Europea che impediscono questa, titolo, questo golden share qatariota. Ma abbiamo la pagina del Sole 24 Ore, naturalmente giornale specializzato in temi economici e finanziari, e abbiamo da una parte produzione e lavoro, Lombardia infrenata, industria debole, dalla crescita robusta del 2018 alla flessione del quarto trimestre 2019, anche le commesse sono in stallo, ci parla di incertezza con Bonometri della Confindustria Lombardia che afferma navighiamo a vista in balia di eventi imprevedibili, alcuni poi sono talmente imponderabili come il coronavirus. virus che evidentemente colpisce pesantissimamente, per esempio, per dire solamente uno, due anzi, il terreno degli export e il terreno del turismo con il continente cinese. Unica positività, la propensione ad investire. Nel frattempo, come salvagente degli investimenti, leggo Mauro Salerno e Giorgio Santilli, sempre da Sulle 24 Ore, arriva lo sblocca cantieri bis, cambiano commissari e codice. Verso il pacchetto crescita, l'ipotesi di un decreto che rende linea guida ANAC non vincolanti, quindi deregulation. Pronto il regolamento appalti, De Micheli rilancia la riduzione anche delle stazioni appaltanti, questo è quanto. Ma sulla Alessandro Robecchi, in Piovono Pietre del Fatto Quotidiano, va a guardare questo bellissimo mondo, perché leggo: sempre meno lavoratori e sempre più profitti. Profitto è il progresso, bellezza. Unicredit, non solo, abbiamo letto ieri dalla banca Unicredit, il piano Team 23 prevede 6.000 posti di lavoro in meno, e non perché l'azienda sia in crisi, per guadagnarci di più, quindi. E così la piccola borghesia sparisce? Ma chi se ne frega, dice Barbecchi. E allora, se la vicenda di Italy, che appunto resta a terra dopo 56 anni, trova ampio spazio anche sul Manifesto, sulla Repubblica, il Manifesto ad esempio però condisce purtroppo con altre notizie, ad esempio Alpitel, società di impianti di comunicazione, che licenzia 100 addetti su 600 totali e dice no al contratto di solidarietà per gestire gli esuberi, o ancora sciopero di 8 ore nella sede impiegatizia della Whirlpool, altra azienda a rischio a Fabriano, preoccupazione legata al trasferimento in Polonia. A queste situazioni certo non fa un favore, non aiuta il Jobs Act, perché secondo il Comitato dei diritti sociali di Strasburgo dell'Unione Europea, il Jobs Act lede i diritti dei lavoratori, e la decisione su un ricorso della CGIL al Comitato dei diritti sociali, tanto che il commento di Giovanni Orlandini, sempre sul Manifesto: l'Europa va contro la riforma renziana. L'Europa che peraltro sta per vedere sbarcare altri colossi dell'e-commerce, oltre a quelli d'oltreoceano americani, i cinesi di Alibaba sono pronti a sbarcare a Liegi, avamposto in Europa, e il Carlino ci ricorda che Alibaba, multinazionale cinese fondata nel 99 da Jack Ma, ha solo 100.000 dipendenti, Amazon ne ha 650.000. Lo sbarco in Europa fa entrare il dragone nell'area continentale, e d'altronde però gli altri non stanno a guardare, perché leggo che Amazon rilancia aprendo due nuovi centri a Rovigo e a Roma. E questo naturalmente provoca uno tsunami su negozi e ipermercati, con un'intervista all'economista Fabio Fulvio, che dice: è una trasformazione epocale, i commercianti si possono salvare solo offrendo web e servizi. O magari facendo pagare la web tax ad Amazon, per dirne una. Comunque, veniamo a un altro sciopero, che questa volta parla della scuola, perché a San Valentino, 14 febbraio, i precari della scuola scioperano per chiedere una reale stabilizzazione. I concorsi indetti dal Ministero infatti non vengono ritenuti sufficienti per coprire il reale fabbisogno delle scuole. Ne abbiamo parlato con Silvia Casale del coordinamento precari e precarie scuole di Bologna. Sentiamo le sue parole. Noi il 14 febbraio saremo in piazza davanti all'ufficio scolastico insieme al sindacato SGB, che è uno di quelli che ha aderito allo sciopero del 14. I motivi per cui abbiamo deciso di portare avanti, di aderire anzi alla giornata lanciata dalla rete nazionale dei precari autoconvocati, a cui noi appunto abbiamo aderito, sono il fatto che c'è una situazione di precariato scolastico che anno dopo anno diventa sempre più insostenibile. D'altra parte, le proposte che vengono fatte dai governi che sono succeduti in questi anni sono assolutamente insufficienti e lesive della dignità di noi lavoratori e lavoratrici. Ad oggi si propongono un concorso straordinario e un concorso ordinario, di cui stiamo aspettando i bandi, per un numero di posti assolutamente insufficiente rispetto al reale fabbisogno della scuola. Si parla di 24.000 posti per ognuno di questi concorsi, quando si calcola che nell'anno scolastico in corso ci sono state una cosa come 170.000 supplenze, per cui i numeri proprio non tornano. D'altra parte il sistema dei concorsi ad oggi è l'unico percorso possibile per avere una stabilizzazione nel mondo della scuola. Oltre a questo, noi siamo veramente molto perplessi rispetto anche alle dichiarazioni che dal Ministero dell'Istruzione stanno arrivando nell'ultimo periodo. Ad esempio, critichiamo fortemente il fatto che gli insegnanti di sostegno, coloro che da terza fascia, quindi non abilitati, non specializzati, però da anni lavorano e coprono in qualche modo il bisogno di insegnanti di sostegno nella scuola, non potranno far valere questi anni di servizio per partecipare al concorso straordinario, e d'altra parte non viene garantito per loro neanche l'accesso alla specializzazione. Quindi in sostanza voi chiedete una, diciamo così, una stabilizzazione, un'assunzione per chi già lavora da più di 3 anni. Esatto, questo ci sembra insomma il limite minimo per poter riconoscere in qualche modo un servizio prestato per anni, anche perché ricordiamoci che è dal 2014 che non esiste alcun tipo di percorso per la stabilizzazione, per cui in tutti questi anni si sono creati sacche e sacche di precariato, anche diverse tra di loro, perché uscenti da percorsi differenti, quindi siamo anche una classe lavoratrice molto frammentata al nostro interno, per cui uno dei motivi insomma che ci hanno portato a scioperare il 14 è anche quello di trovare una nuova unione all'interno di noi precari e precari. Allora ti chiedo se puoi ricordare l'appuntamento. Allora, noi ci vedremo venerdì mattina alle 9:30 in via dei Castagnoli 1 davanti alla sede dell'ufficio scolastico insieme al SGB, e noi siamo il coordinamento dei precari della scuola. Abbiamo lanciato lo sciopero al nome di questa storia deve finire, riferito alla storia tra precariato e scuola, quindi vi preghiamo di raggiungerci, di sostenerci e di portare i vostri cuori spezzati e affranti. Infatti fate anche un po' di ironia magari sul fatto che è, certo, San Valentino. Esattamente. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. E allora abbiamo un appello di dolore che immagino commuoverà tutti i precari italiani, che arriva da Ilona Staller. Vitalizio tagliato, potevo morire. Da 3.100 a 1.000 euro al mese potevo morire di fame. Così dopo da vedere i filmati dall'Africa, dai 2 euro per la signora Ilona Staller. Comunque, questo ci porta alla pagina della politica, ci fa per dire. Quindi, che ha 2 temi principali: uno, la vicenda della prescrizione e la lite Renzi contro la maggioranza, e l'altra è la questione che si apre al Senato l'esame del caso Gregoretti, che per il processo a Matteo Salvini per sequestro di persona. E cominciamo però con un dato che ci riporta la Costituzione, che fino a prova contraria è sempre la pietra angolare della nostra convivenza civile e giuridica. L'avvocato dello Stato boccia a sorpresa la spazza corrotti, per queste riforme vengono chiamate lo sblocca cantieri, la salva Italia, e qui c'è la spazza corrotti, va bene solo per una gag pubblicitaria, non di più. Considerata incostituzionale la retroattività attesa per la decisione della Consulta. Cosa voleva la legge spazza corrotti? È quella in cui si nega, leggo dal Corriere, ai condannati di corruzione la possibilità di scontare la pena fuori dal carcere, pur se i fatti contestati sono precedenti alla riforma e contrari ai principi della Costituzione. Norma che, cioè, bocciatura che predicherebbe prudenza anche sulla prescrizione. Ma la cosa naturalmente in Senato si gioca, in Parlamento su altri tavoli, che c'entra un poco col diritto e la giurisprudenza, magari solo con la salvaguardia di qualche indagato di famiglia, ma che c'entra molto con gli equilibri, lo spostamento del governo, tentativo di spostare il governo da un giallo rosa a un giallo centro o altro cosa, insomma politica e giustizia, così racconta Marco Galluzzo dal Corriere. Italia Viva e opposizione non passano per 2 voti. Prescrizione, questo è sostenuto dai renziani. Lega, Fratelli d'Italia, FL, Conte dice no all'arroganza, e ora si punta a un disegno di legge. Quindi si pensava che fosse l'occasione buona per far uscire allo scoperto i responsabili, cioè i scilipoti del 2020, ma la ritirata dei possibili responsabili, si dice, si esce se serve, non un minimo prima, non un minuto prima, cioè si fa i sommergibili prima e si nega fino all'evidenza. L'incontro tra il leader UDC Cesa e Berlusconi. poi l'operazione si arresta. Questo è quanto, perché di arresti si parla qua. Zingaretti, nel retroscena raccontato dal Corriere, va difeso l'esecutivo, Renzi sta cercando di logorarci, la linea segretario PD, Matteo pensa di guadagnare consensi ma si sbaglia. Questo è quello che arriva. Renzi è posseduto da Salvini, questo è in qualche modo l'esorcista demoniaco, un film horror raccontato dal Fatto Quotidiano. Vota collega Fratelli d'Italia, crisi vicina, prescrizioni, lodo Conte bis esce dal mille proroghe, diventa un disegno di legge, ma Italia Viva si schiera con le destre. Questo è Antonio Padellaro, da giorni convinto che Renzi è un blefatore con pochi assi in mano, e quindi lo definisce oggi un mediocre pokerista, perché andare alle elezioni per Renzi non sarebbe il massimo, visto che i dati elettorali e i sondaggi non sono dei migliori per superare il quorum. È un mediocre pokerista, chi vede il blef lo smaschera, dice Padellaro. Sì, prescrizione domani al Consiglio dei Ministri, dice Repubblica. Il governo, nonostante il no dei renziani, discuterà un disegno di legge con il lodo Conte bis, che poi potrebbe tradursi in un emendamento alla legge Costa, mentre la Lega firma la proposta di Lucia Annibali, avvocata che dal 2018 è alla Camera deputata di Italia Viva. Conta insomma lo scontro con Renzi, questa è la sintesi, basta arroganza e diktat, con Repubblica che va a guardare anche in casa Renzi. Nella sede di Italia Viva in via dei Cappellari, alle spalle di Campo dei Fiori, fino a poche settimane fa era la casa del PD, ora dalle vecchie gigantografie sono rimaste appese quelle di Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, via Gramsci, Togliatti, Scoppola, i partigiani festanti nei giorni della liberazione. Mentre dalle pagine del manifesto, prescrizione, Conte frena e Renzi vota con l'opposizione. Augusto Minzolini, nel retroscena dalla prima pagina del giornale, parla di questo feeling tra i due Mattei, i renziani lascino l'aula, questo è l'invito che arriva dalla Lega, ma il giornale è preoccupato poi per l'altro Matteo, Salvini rischia il carcere, il caso naturalmente della nave Gregoretti, immigrati, oggi il Senato vota sul processo per sequestro di persona, e appunto c'è Zingaretti che teme anche in questo caso l'asse appunto di Renzi con la Lega. Secondo Luca Fatti, Salvini rischia grosso, l'accusa dei PM può comportare una pena sino a 12 anni e trascinare a giudizio il Premier non lo salverà. Quindi il giornale è mobilitato, mentre Gregoretti il dietro front dalla Repubblica, l'ordine di Salvini e i suoi leghisti non votate, quindi è un cambiamento, devo dire, a 360 gradi di strategia anche dalle pagine del manifesto. Forza Italia e Fratelli d'Italia chiedono di negare l'autorizzazione ma la maggioranza è compatta, il leader del Carroccio ha chiesto ai suoi di non partecipare al voto pur restando in aula, e appunto la seduta si aprirà con l'intervento della leghista Erika Stefani, che riferirà sul voto della giunta. Gregoretti, dice il Corriere della Sera, è il giorno del voto in aula, Salvini non ci opponiamo al processo, anche perché non so come potrebbe fare, cioè i casi, se il Senato vota sulla punibilità, processabilità, ha due possibilità, o vola ad Al-Mamet o si fa processare, non vedo una terza via. A Palazzo Madama la maggioranza è pronta a dire sì, gli alleati di centrodestra si schierano contro, e quindi c'è anche questo tema che arriva dalla Verità, giornale di estrema destra, anche se il suo direttore viene a dire che lui è apolitico. Salvini nelle mani dei giudici, il Senato decide sul caso Gregoretti, questo è il fans di Salvini. Ma Salvini in questo momento ha qualche problema, per esempio nella Lega stessa, i dubbi dei fedelissimi sulla linea del dopo Emilia, match con la Meloni in Puglia. Questo è il retroscena di Marco Cremonesi dal Corriere. Anche la Stampa, anzi la Stampa apre con Meloni, Salvini ci fa la guerra. Il leader delle Sardine Sartori incontra il ministro Provenzano, altro titolo, altro parrocchia peraltro. Sul taglio dei letti 5 Stelle sbaglia. In Emilia Schlein nominata per vicepresidente, dobbiamo colmare la distanza tra città e campagna. Sul taglio dei letti c'è anche una petizione che arriva, che parte da Laura Veronesi ma è chiaramente trasversale, per contestare questo taglio degli eletti come forma di diminuzione di rappresentanza democratica e autoritarismo delle segreterie. E io personalmente ho aderito e faccio questo appello personale, aderite a questa battaglia che è contro i mulini a vento, forse, ma è comunque giusta. Ma allora anche Mattia Sartori, sbagliata la piazza 5 Stelle, molti di noi contrari al taglio degli eletti, se mi candidassi, dice così alla domanda, lo farei a livello locale. Questo naturalmente fa parlare i giornali su una sua cosa. Ma su chi invece si è candidato, chi si è già eletto, veniamo all'intervista che la stampa mette a fianco a quella di Santori, che è la Alice Line della Lista Coraggiosa, boom di preferenze. E adesso, come racconta anche il Corriere Bologna, Filicori della Cultura, Schlein vicepresidente, assessore, un politico per la sanità, che sarebbe, secondo i rumor scolti da Mauro Giordano del Corriere, sarebbe Donini. Ma dice la Schlein, plurintervistata, la vicepresidente, ascolteremo anche chi non ci ha votato, che è un classico da quando uno ha un ruolo di vicepresidente di una regione. E invece dice il Corriere Bologna, invece dice la stampa, tocca a noi lo sforzo di colmare la distanza tra città e campagna, le famose periferie che hanno fatto pagare dazio al centro-sinistra anche nei voti e favorito la Lega nella solitudine delle campagne, dell'Appennino, delle città medesime. L'Emilia, laboratorio su ambiente e disuguaglianze. Si parlava anche di una delega alla disuguaglianza per la Alice Line. Langer, ricorda la Line, scriveva che la transizione ecologica si farà quando sarà desiderabile. Ora lo è. Sì, e Schlein anche dal Manifesto, ora il patto per il clima, mentre dal Carlino, Bonaccini in giunta alla neostella della sinistra Schlein e il manager Filicori alla cultura. Tu citavi, evocavi prima Craxi, segnalo dal Carlino, una strada per Craxi. A Pesaro il sindaco dei Dem, Matteo Ricci, spiazza il PD, cioè il suo partito, proponendo una strada appunto intitolata Craxi, e dice, motiva la scelta, ero suo avversario, ma ormai va valutato storicamente. La statura politica e la visione europea sono indiscutibili. Forza Italia applaude, mentre silenzio dai vertici nazionali del PD. Che credo non dica molto nemmeno su quest'altra vicenda che ci riporta in Puglia, ma questa volta non per come dire i veleni del centrodestra, di cui già anticipava Alfredo, ma invece per questi strani abbracci, o comunque abbracci mortali. L'alleato di Emiliano che vuole chiudere l'Ampi. Si parla del sindaco di Nardò, Pippi Mellone, 35 anni, già vicinissimo a Casa Pound, noto alle cronache per un video in cui si esibiva nel saluto romano, che però è molto vicino a Michele Emiliano per appunto la conferma in regione. Ieri Mellone ha fatto di più: in una polemica con l'Ampi di Lecce sulle foibe ha scritto su Facebook, l'Ampi di Lecce deve essere chiusa immediatamente perché rappresenta un pericolo per la democrazia, e quindi creando un certo imbarazzo. Da sud verso nord, un passo verso Greta e le Sardine, in Veneto debutta il nuovo PD. Vediamo un po' questa anteprima del nuovo PD, candidati civici alle regionali a Venezia per conquistare giovani e ambientalisti, fuori dai partiti, legati ai movimenti civici, cattolici e capaci di parlare sia alle sardine che ai giovani attivisti di Greta Thunberg, una donna manager e un professore universitario in Veneto. PD e centrosinistra, un passo dall'accordo su candidati verdi, fra virgolette, alle regionali in Veneto e alle comunali a Venezia previste il 24 maggio. E allora andiamo al tema della casa, dell'affitto, che viene sabotato, tra virgolette, da Airbnb, perché gli affitti sono tramutati in questi affitti brevi a uso turistico nei centri storici, appunto frequentati dai vacanzieri. Questa città non è un albergo, l'affare per pochi di Airbnb è il fatto economico, il focus sullo sharing economy. Decine di centri storici gestiti dalla piattaforma e affitti sempre più alti, gli albergatori insorgono, il fisco raccoglie solo le briciole. Patrizia De De Ruberti parla di questo fenomeno Airbnb nato come social, adesso molto multinazionality, perché il meccanismo è così raccontato: sono le grandi aziende a gestire oltre 400.000 appartamenti, un migliaio di amministrazioni hanno fatto accordi col portale, quindi c'è proprio un accordo, e poi ci sono Venezia, Firenze, Napoli, che sono assolutamente preoccupate per questa invasione, che naturalmente invade in particolare i centri storici, quelli delle bellezze artistiche. A Bologna fermate le licenze per i prossimi 3 anni, queste sono le proteste che arrivano da Forza Italia e Italia Viva, questa raccontata dal Fatto Quotidiano. Mi sposto invece in Liguria, a Genova, perché Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade, afferma alla stampa: vorrei incontrare i parenti delle vittime del Morandi. Noi siamo diversi da Toscani. A questo punto impariamo che la colpa del Ponte Morandi è di Oliviero Toscani con la sua improvvida uscita, non dell'autostrada o altro. Comunque questo è l'Italia, la solita lietta che si diverte e gioca a scopone scientifico. Ma andiamo invece, parlando di turismo, parlando di Airbnb, la storia è di Isabella Bossi Fredigotti dal Corriere, rivolta sul Lago Incantato, basta turisti da selfie. Siamo a Braies, reso famoso in cosa in TV da Terence Hill, a due passi dal cielo, perché si va a fotografare il Mulino Bianco, c'è lo spot, e si va a fotografare appunto la Mob Prince mentre fuma nel disastro marittimo, e si va a Braies perché c'è Don Matteo. Qui è un'invasione, ma solo mordi e fuggi. Se fosse un'invasione invece che rimane, forse avrebbe un'altra accoglienza. Comunque questo è quanto. Mentre abbiamo un film di Elisabetta Sgarbi presentato al Corriere, che La nave di Teseo, nove lezioni sui vaccini, la scienza contro le fake news. Devo dire che ultimamente gli anti-vax hanno poco credito in tempo di coronavirus. Comunque, punto sull'autorevolezza e la forza dei numeri. Sì, ancora invece dalle pagine del giornale, pagine di cronaca, abbiamo 38 arresti a Roma, omicidi e slot machine, l'ex boss della Magliana era il quinto re di Roma, smantellata la banda di Salvatore Nicitra, milioni di euro riciclati, quindi insomma vecchi nomi che non tramontano mai. E poi invece sempre il giornale è preoccupato da questa notizia. Lo Stato affida all'esterno le intercettazioni e l'uso del virus telematico, concreto il rischio manipolazioni, Trojan, telefonini spiati dalle aziende private, quindi il timore appunto visto del giornale è che ci sia appunto che questo affidamento, questi appalti esterni per quanto riguarda le intercettazioni, insomma, non siano del tutto tranquilli. Devo dire che insomma, visto da dove siamo partiti, dalla strage di Bologna, anche come dire, anche la gestione interna non è che finora abbia in passato abbia dato del come dire buona prova, abbia mostrato buona prova di sé. E ora parliamo di pangolini e pipistrelli, perché siamo alla parola coronavirus. Corriere della Sera, virus 18 mesi per il vaccino. Qui siamo nel completo, così anche andare a tentoni, perché una volta ci dicono che il vaccino sarà pronto entro l'estate, la volta dopo ci sono 18 mesi, una volta ci raccontano che sono 14 giorni l'incubazione, ma i medici cinesi parlano anche di 24. Insomma, siamo evidentemente ancora in una fase a tentativi. L'OMS dice: peggio del terrorismo, il mondo si svegli, superati 1000 morti. Certo, come si ripete, che in termini relativi è meno della SARS, in termini assoluti, visto che il contagio è molto più facile, è più alto. Il grande nemico si può fermare, questo è questo virus ribattezzato Covid-19, almeno 18 mesi per un vaccino, servono investimenti adeguati, e qui il piatto piange. E poi, girando le varie pagine del Corriere, che come sempre dedica largo spazio al coronavirus, Steve da Singapore al Monte Bianco, è guarito il contagiato Globetrotter, il britannico che ha portato il virus dalle Asie all'Europa, per l'OMS un esempio di grande diffusore. E qui appunto arrivano anche i grandi diffusori, eccole qua, pipistrelli e pangolini, poi il salto negli umani, ecco la fabbrica biologica del coronavirus, quindi gli animali selvaggi tornano sul banco degli imputati, l'identikit di un processo dai lati ancora misteriosi tracciato dal virologo Giorgio Palù e Maria Rita Gismondo dalla stampa. Ma mentre la quarantena è infinita dei crocieristi, mangiamo bene ma fateci scendere, effettivamente in crociera è già palloso quando si gira per crociera, quando poi sei in quarantena. Comunque e poi in Cina le purghe sì contro i leader locali, virus 500 medici contagiati a Wuhan, questo dà dimensione anche quanto sia facile il contagio, mentre il turismo conta danni ingenti anche in fuori dalla Cina, in Milano in particolare, disdette da tutto l'Oriente. Sì, a proposito della nave a largo di Yokohama, anche il manifesto intervista una virologa della Columbia University di New York che dice: trattenere le persone a bordo della nave non è una buona idea, perché è probabile che la diffusione si allarghi. Il coronavirus ha questo nome, Covid-19, Repubblica ci spiega che cosa significa, costa per corona, V per virus, D per disease, malattia, 19 l'anno di nascita, perché deve essere un nome facile da pronunciare e non deve fare riferimento a luoghi o a persone, quindi Covid-19 è perfetto. Però non c'è dubbio che il nome nasconde appunto quella che è la prima emergenza sanitaria nell'epoca dell'intelligenza artificiale, e di questo appunto si occupa un lungo articolo oggi di Simone Pieranni appunto dalle pagine del Manifesto. Nel frattempo le conseguenze economiche riguardano una contrazione globale a Pechino e nel resto del mondo, soprattutto i settori più a rischio sono quelli dei beni di lusso e del turismo. E allora anche dalla Repubblica a livello economico, 300 milioni subito, primi aiuti alle imprese, qui siamo in Italia, che lavorano con la Cina, misure allo studio anche per hotel e tour operator penalizzati dal blocco dei voli. Pagina estera all'ora del tutto, democratici spaccati, Biden fugge, sulle primarie l'ombra di Bloomberg, era facile pronosticarlo, Sanders e Buttigieg protagonisti in New Hampshire. Effettivamente devo dire che attualmente il dato che sezione scrutinata è l'87% di questa elezione nel New Hampshire vede Bernie Sanders in testa col 25,7% di voti, segue Pete Buttigieg sempre incollato 24,4%, poi Amy Klobuchar 19,8%, Elizabeth Warren al 9,3%, quindi se la Warren cerca di rubare voti a Bernie Sanders, come dicevano alcuni giornali, l'operazione è fallita. Mi sposto invece nel Regno Unito, perché il Corriere continua a ignorare la vittoria del Sinn Féin in Irlanda, non gli interessa, non vuol vedere, è tre giorni che non pubblica una riga. In compenso però oggi parla della Scozia, che apre la via catalana, la leader Sturgeon e l'indipendenza, referendum anche contro il volere del Parlamento di Londra, dice il Corriere della Sera. Allora vedremo come si comporteranno i nostri Soloni, che hanno condannato l'indipendenza catalana, se invece condanneranno anche l'indipendenza della Scozia, che rompe con Johnson, che ha rotto con l'Unione Europea, vedremo. Nel frattempo cosa fa Boris Johnson? Altro che ponte di Messina, e Johnson traccia il suo ponte record per saldare il paese, tratto di 45 km per agganciare l'Ulster, e sì che anche la zona tormentata da tempeste, costerà 50 miliardi, già chiesti gli studi, tanto così gli studi, si paga dei consulenti e si butta un po' di becchime ai polli elettorali. Nel frattempo il Regno Unito, ma anche il cielo della Francia, vede Ciara, questa tempesta che ha azzerato i voli, ha rovesciato camion, ha distrutto, ha fatto morire delle persone. La maledizione di Ciara, 20-200 km e blackout nel nord Italia, sembra di leggere quelle degli uragani nel Golfo del Messico, ma qui siamo nel nord Europa. Morta una donna colpita dai calcinacci di un tetto in Valtellina, sospesi i lavori nel ponte a Genova, perché è arrivata anche in Italia, per quanto più blanda. Piste da sci chiuse per il caldo, perché questo l'altro elemento è questo elemento. E allora leggo nel dossier, ne abbiamo parlato in apertura, riprendiamo il tema dell'ambiente con Mario Tozzi, tempeste, incendi e mari in crescita, leggo dalla stampa, in pericolo i più poveri del pianeta. Ogni anno è più caldo di quello precedente, il sistema atmosferico evacua maggiori quantità di energia termica, il punto di ritorno, di non ritorno del clima porterà morte e migrazione forzata, dice Tozzi. Pagine internazionali abbastanza rade quest'oggi, segnalo dalla Repubblica la svolta del Sudan con Omar al-Bashir, l'ex dittatore che verrà estradato alla Corte dell'Aia, potrebbe essere chiamato a rispondere del genocidio nel Darfur, la conferma anche dal Manifesto. Il Sudan, stanco della blacklist, cede al-Bashir all'Aia, festeggiano i gruppi ribelli, mentre all'ONU protesta Abu Mazen, anche la Repubblica, il presidente palestinese attacca il piano Trump, ma poi, ci dice il Manifesto, offre agli Stati Uniti di mediare, mentre in migliaia manifestano a Ramallah appunto contro il piano di pace americano. E noi siamo andati in fondo, ma riprendiamo il tema tormentone, sacrosanto, per la campagna per Patrick Zaki, la sua liberazione dalle carceri egiziane. Sentiamo l'intervista da Babs del laboratorio Smascheramenti. Beh, il nostro è un laboratorio che da anni si impegna sul fronte delle lotte queer, LGBT, sono un toglie che chiunque per qualsiasi ragione venga imprigionato sotto il regime di Al-Sisi per motivi, diciamo, legati alla morale, sicuramente incontra il nostro supporto. Patrick era uno studente di gender studies, cosa che spesso viene taciuta dai giornali italiani, che preferiscono invece parlare di un più generico diritti umani, evidentemente perché anche in questo paese ci sono dei problemi rispetto alla questione del gender, come ben sappiamo. Ci impegniamo e supportiamo le proteste per mantenere alta l'attenzione e per fare anche arrivare a Patrick un messaggio di solidarietà, vicinanza, complicità da parte della comunità LGBT. In particolare, quello che emerge anche nelle ultime ore, nei ultimi giorni, è proprio l'argomento della difesa della comunità LGBTQ più che appunto viene utilizzato dal regime di Al-Sisi attraverso le televisioni, i media che controlla per screditare e attaccare Patrick. Infatti bisogna studiare delle strategie che possano avere efficacia, considerato appunto il fatto che sotto il regime di Al-Sisi le persone LGBT vengono imprigionate con accuse sempre simili a quelle che sono addebitate anche a Patrick, è quello in qualche modo di eversione dell'ordine morale, di appunto immoralità. C'è una serie di leggi che riguardano questo e diciamo che l'utilizzo dei social da parte delle persone LGBT per il regime Al-Sisi è già una ragione per accusare di far parte di gruppi eversivi in qualche modo dell'ordine costituito. Tu prima appunto dicevi quello che accade in Egitto, ma dicevi la questione del genere non è digerita bene neanche in Italia. Beh, innanzitutto c'è stata la invenzione da parte dei gruppi Teocon del termine ideologia del gender, che è finito anche addirittura in delle documenti ufficiali della scuola pubblica, dove si dice che l'ideologia del gender non debba entrare nella scuola pubblica. E abbiamo avuto Pillon, abbiamo avuto il congresso mondiale della famiglia in Italia ed è da poco che si è costituita una nuova formazione Teocon con che sarà una grossa minaccia, perché da quello che dicono hanno aperto addirittura un numero di telefono da chiamare per denunciare in modo anonimo la presenza del gender nelle scuole, quindi siamo praticamente alla fantascienza.